tutti i bambini con i chiodini, vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale. Iniziamo a qualche data dal calendario anticlericale di Pierino Marazzani. 17 febbraio 1866. Il sempre attivissimo boia papale Mastro Titta esegue una condanna a morte a Viterbo. 18 febbraio 1561. Processata suora veneziana e suo amante, lo scandalo avvenne nel monastero dello Spirito Santo. 19 febbraio 2019. Dossier per la diocesi sugli incontri gay di vari preti napoletani. 20 febbraio 1938. Il nunzio papale a Berlino benedice il capo dei cappellani dell'esercito nazista. 21 febbraio 2018. Campane spacca timpani a Crevola d'Ossa Verbania. Un professionista ivi residente raccoglie firme contro i preti. 22 febbraio 2018. Ex prete di Valbon condannato a 2 anni di prigione per aggressioni sessuali. E veniamo alla notizia bomba della settimana. Abusato dai sacerdoti, docente universitario denuncia dopo 30 anni. E a Perugia indagato ex religioso per un tentativo di sfruttamento a fini sessuali. La vittima è il docente universitario di filosofia Gianbruno Cecchin, 48 anni, che sostiene di aver subito violenza da ben 2 sacerdoti, ora parroci. Sempre su un altro giornale, messaggero.it, io violentato in seminario nel 90, la denuncia shock del professore universitario. I responsabili sono parroci a Venezia e a Padova. Vedremo come va a finire. La legge spagnola sulla buona morte è pronta e conta su un vasto appoggio, ce lo dice il manifesto del 12 febbraio. Ieri la nuova maggioranza ha dato luce verde all'inizio della discussione. In Portogallo tale legge non è passata per pochi voti, ma pare che in Spagna ci sia una larga maggioranza. Razzismo e clerico-fascismo. Nella Chiesa esiste ed è sempre esistita una grossa corrente filofascista-razzista. E ce lo conferma la Repubblica dell'11 febbraio. Prete lascia la tonaca e diventa militante della forza neonazista di Forza Nuova. Poi una notizia curiosa su una specie di rissa fra preti pallonari. Guerra tra preti per un pallone. Il Vaticano non riconosce la Selecao di Don Buccianti. La squadra dei sacerdoti lombardi non potrà partecipare ai campionati europei di calcio per preti a Praga. E qui è tutta una rissa fra preti. Quelli che hanno l'appoggio del Vaticano ovviamente hanno escluso gli altri. Interessante anche notare che sono stati esclusi i sacerdoti ortodossi dell'Ucraina e anche quelli del Kosovo dicendo che c'era l'Albania. E qui c'è su 7 giorni del 7 febbraio 2020 ampio articolo che dimostra per l'ennesima volta la doppiezza del Vaticano. Abbiamo poi un articolo interessante apparso sulla Repubblica del 12 febbraio, strage di Bologna, l'ultima verità, i mandanti Gelli e i servizi sterviati. Ricordiamo che Gelli era amicissimo di Andreotti e col quale ci sono tantissime foto che li ritraggono insieme. Gelli era amicissimo dei generali guerrilla clerico-fascisti di Cile e Argentina. E quindi questa è una nuova riconferma delle intromissioni, delle compromissioni, delle complicità fra elementi del clero reazionario e quelli del fascismo internazionale. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Iniziamo dal prete manesco della Sardegna, Oristano. Basta baciarvi, tirò uno schiaffo a una ragazzina, prete a processo. Dal quotidiano nazionale del 19 febbraio 2020. È in corso davanti al giudice di pace il processo a Don Eliseo Lillu, prete di Torralba Oristano, accusato di percosse. Infastidito dalle fusioni fra due giovani, diede uno schiaffo a una ragazza. Scandali in Vaticano, dalla Repubblica del 19 febbraio 2020. Palazzi della Santa Sede, sequestrate carte e personal computer di Monsignor Perlasca, che sarebbe coinvolto nello scandalo degli immobili del Vaticano a Londra. Scandalo degli abusi sessuali dei Boy Scout in America. Ne parlano tantissimi giornali, ovviamente anche in questo caso i cappellani erano complici e conniventi. Passiamo ora a parlare di alcuni misfatti contro gli animali vecchi e nuovi. Perché vietare l'ingresso di un cane in chiesa? Il Labrador Pavel ululava e piangeva sul sagrato della chiesa di San Pier Giorgio a Torino. Avrebbe voluto partecipare al funerale del suo padrone per dargli l'ultimo saluto, ma un prete cattivo glielo ha impedito, tra le proteste dei parenti e degli amici. E questo prete di San Marino addirittura cosa ha proposto contro i preti pedofili? C'è chi prende lucciole per lanterne, la denuncia di alcuni animalisti nei confronti di un prete. Ha condannato la pedofilia nella chiesa utilizzando un paradosso. Ha suggerito agli altri preti, provati da necessità fisiche, di non abusare dei bambini ma di trovarsi un animale. Quindi è stato denunciato per istigazione al maltrattamento degli animali. Dal quotidiano nazionale, dal Giorno del 20 agosto 2017, prete cecchino spara i piccioni a misteriose fucilate vicino all'ospedale di Niguarda a Milano. Era il prete che sparava i piccioni. Dal Corriere della Sera del 14 febbraio 2017. A Roma respinta una fedele con cane, polemica degli animalisti. Sono come noi, serve rispetto. La disfida degli animali contro la Chiesa. Da Il Giorno del 28 novembre 2016. Scomunica per i preti cacciatori. Gli ambientalisti scrivono al Papa. Molti dei sacerdoti vanno a caccia e sono pure incoraggiati dai loro vescovi. Appello dell'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. A Pergine sono passati ai fatti. Hanno fatto irruzione in chiesa durante la messa di Don Dario Sittoni, appassionato cacciatore, e hanno esposto un lenzuolo con la scritta «Basta con la caccia e crudeltà contro gli animali». Dall'Espresso di qualche anno fa, del 2010, silenzio sui gatti del Papa, che Papa Ratzinger era un amante dei gatti, ma appunto per non entrare in contraddizione con la reazionaria dottrina della Chiesa in materia di animali, volle che la cosa rimanesse segreta. A Sori, Genova, parroco aiuta a uccidere cinghiali, proteste degli animalisti. Avrebbe preso a bastonate e badilate alcuni piccoli di cinghiali finiti per errore in mezzo alla strada vicino alla chiesa. A Venezia, prete reazionario critica gli amanti dei cani. A Spinea, Venezia, Don Scattolon si scaglia con un editoriale contro coloro che danno troppe cure ai loro cani e dovrebbero invece fare più figli, proprio a loro preti, che chi predica da che pulpito viene la predica. Petizione francese contro l'ermellino del Papa, e appunto perché questi animali vengono allevati, poi uccisi, oppure cacciati e uccisi per trarne la pelliccia. E quindi petizione francese contro l'ermellino del Papa. Commenti. Sperare che un Papa abbia rispetto per le creature vuol dire non aver studiato la storia della Chiesa.